La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo inizio di settimana, in questo lunedì 30 di ottobre alle 16.8 primi e 19 secondi. Grazie per l'ascolto in diretta in podcast qui dagli studi di Milano, di nuovo assolata, non c'è proprio verso di andare verso l'autunno. Naturalmente la regista mi sta sorridendo con tutti i denti veri che ha mostrati sorridendo, però non se ne può più di questa lunga estate, francamente. Ma detto tutto questo, di che cosa parliamo oggi? Oggi lo spunto è un libro molto bello che io vi consiglio assolutamente di leggere, perché ha il pregio di toccare molti punti fondamentali della condizione italiana da parte di un osservatore che io stimo molto, da cui imparo moltissimo da anni e che in questi anni ha avuto, secondo me, la versatilità e ha gli strumenti di competenza per unire insieme almeno quattro crisi diverse nel paese, leggendone i dati nel tempo e tentando di ordinarli come criteria di lettura, ma soprattutto intanto leggendo i dati nel tempo, perché uno dei problemi fondamentali del nostro paese è quello di avere carenze di analisi affidabili dei fenomeni, delle trasformazioni sociali ed economiche che avvengano con tempi sufficientemente ristretti, tanto da poter essere affidabili per immaginare come affrontarli. Noi abbiamo ancora strumenti di elaborazione statistica dei dati nel nostro sistema di contabilità pubblica molto lunghi nel tempo, troppo lunghi nel tempo. Abbiamo per esempio sul mercato del lavoro accentuato in questi anni la frequenza e quindi la rapidità della elaborazione dei dati, ma ne abbiamo ottenuto poi effetti, come sempre quando si fanno le novità, si tratta anche di imparare dagli errori, che sono stati contrastanti. Invece di agevolare per molti versi i fenomeni, la lettura dei fenomeni che sta avvenendo nel mercato del lavoro pre e soprattutto post Jobs Act, avete visto come per tre anni i dati diventavano, a seconda che fossero quelli dell'osservatorio sulla precarietà dell'INPS e a seconda che fossero quindi il numero di contratti accesi e spenti, che non equivaleva ai posti di lavoro, o le rilevazioni dell'Istat sui posti di lavoro, si prestassero a fenomeni in cui a quel punto l'interesse politico a sottolineare un effetto piuttosto che un altro faceva sfuggire però all'osservatore generalista, che non ha gli strumenti tecnici né deve averli per capire bene che non un contratto che si accende non equivale a un posto di lavoro, significava però ingenerare un grande caos in quello che stava davvero avvenendo. Invece questo signore che ora vi presento, con il suo libro ma con quello che fa da anni di mestiere, ha tentato di mettere insieme criteri che riguardano la raccolta di dati. Lo fa anche con un blog che si intitola La Nuvola del Lavoro, che è utilissimo per capire come in questi anni sono cambiati i contratti e la modalità dell'offerta e del rapporto reciproco all'interno delle aziende italiane. E ripeto, in questo libro che si intitola Nel paese dei diseguali, sottotitolo Noi i cinesi e la giustizia sociale, e l'editrice è Egea, cioè l'editrice dell'Università Bocconi, nel paese dei diseguali mette insieme i percorsi di lettura che riguardano almeno quattro grandi linee di frattura del nostro paese in questi anni, diciamo gli anni del post 2009, ma soprattutto il post 2011, quelli da cui abbiamo accumulato perdita di reddito pro capite, PIL, in maniera così più intensa degli altri nostri paesi concorrenti in Europa, e che si sono aggiunti ai tanti anni precedenti, prima dell'euro addirittura, in cui era iniziata la nostra perdita, qualunque sia l'indicatore con cui la misuriate, di competitività e produttività comparata. Dicevo, quattro linee di frattura. Ce n'è una che riguarda l'interno del mondo degli occupati, e quindi ci sono dei capitoli in questo libro in cui si analizzano come cambia la natura e la tipologia degli, tra virgolette, operai, tre tipi di operai, come cambia il lavoro autonomo, la novità della precarizzazione nel lavoro autonomo, un lavoro autonomo che si sta riducendo rispetto al picco di 6 milioni che abbiamo avuto di partite IVA nel nostro paese, si sta riducendo anche grazie al Jobs Act, questo va riconosciuto, ma che però vede al contempo un grande fenomeno di precarizzazione e di bassissimo reddito anche in chi da autonomo e portatore, titolare e ha molto scommesso su un'elevata professionalità, come i freelance di Acta, che spesso sentiamo anche noi, abbiamo sentito in questi anni, a cui abbiamo tentato di dare una mano per portare anche il welfare a quella figura professionale. E questa è la prima linea di frattura, che scompone, ricompone con gravissime difficoltà però di comprensione cosa avviene all'interno del mondo del lavoro, sia dipendente che autonomo, perché cambiano le tipologie di offerta, cambiano le competenze richieste, avvengono processi di cui sfugge davvero quali siano i drive da seguire e quali quelli magari da ostacolare. Non basta dire il nuovo è buono, e contemporaneamente bisogna evitare di dire il vecchio è buono, cioè pure nostalgia. Seconda linea di frattura, le differenze che non sono solo nord e sud, ma sono all'interno della complicata geografia italiana, perché questo signore è anche abile nel ricostruire le letture territoriali dei sistemi produttivi. Oggi trovate sul quotidiano per cui scrive due pagine dedicate a perché i liceali e i laureati lasciano il sud, ma è la fine di un'indagine in 8 tappe in cui ha ricostruito diciamo le aggregazioni territoriali nuove dell'Italia in questi ultimi anni, cominciando dal nord, l'Adriatica e così via. E quindi c'è il problema territoriale. Il terzo è il problema tra generazioni, e io di questo parlo spesso, ma qui troverete nuovo pane per l'intelletto. Il quarto è quello delle diseguaglianze in generale, nei redditi, nel patrimonio del nostro paese, che non è solo, anche se è molto, tra gli anziani tutelati dalle pensioni, non perché si siano arricchiti con la pensione, ma perché hanno perso meno stock di patrimonio e di reddito, e gli altri che invece ne hanno perso verticalmente sotto i 35 anni. Però la quarta dimensione è quella della diseguaglianza in generale, su come si misura, sulla difficoltà di fare i conti, sul fatto che, malgrado tutti dicano al contrario, la diseguaglianza in Italia interna, voglio dire, si è aggravata più negli anni 90 che in questi anni di crisi. Tutti pensano al contrario, invece i dati ci dicono che non è vero, ma anche in questo caso mettendo in discussione i dati. Insomma, un libro da leggere, Nel paese dei diseguali, Noi cinesi, la giustizia sociale, fine della mia personalissima recensione e gratitudine personale all'autore, che finalmente vi presento, Dario Di Vico, inviato editorialista del Corriere della Sera. Grazie di essere con noi, grazie di questo tuo nuovo libro che ci consente di capire tante cose. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie a te. Sai che io parlo rapido, però dico come la penso. Allora, tra poco ci raggiungerà il segretario generale della FinCISL, Marco Bentivogli, perché gli voglio chiedere cosa pensa lui del tuo criterio interpretativo di queste due diseguaglianze fondamentali. A me se non concesso che la mia quadruplice ripartizione sulle diseguaglianze che approfondisci sia quella che tu accetti. Di queste quattro, quale metteresti come la più grave, quella che avrebbe bisogno di maggiori sforzi sia interpretativi che di risposte adeguate? Sicuramente quella tra generazioni, nel senso che il tentativo che ho fatto è quello di dire: finora è prevalsa nel dibattito della disuguaglianza una lettura della disuguaglianza americana, noi dobbiamo fare una lettura più puntuale della disuguaglianza italiana, e nella disuguaglianza italiana sicuramente l'elemento generazionale è quello chiave, perché è quel tipo di frattura che è quella con la quale dobbiamo fare i conti più velocemente e con la quale è difficilissimo fare i conti. Quindi, dovendo individuare una gerarchia, direi sicuramente i giovani. Tu richiami per esempio, a questo proposito, a proposito del paradosso di una generazione di anziani che ha passato tutta la vita impiccandosi per 30 anni magari a comprare mattoni, gli dicevano che si sarebbero sempre avvalorati, poi hanno scoperto naturalmente nella crisi che non era vero, però intanto lo stock patrimoniale immobiliare, per cui siamo tra virgolette forti nei paesi avanzati, ce l'hanno loro in mano, i giovani è diventato impossibile da anni per loro avercelo. Dici però il nostro paese, anche quando ha tentato di darsi qualche strumento che serve a fare un travaso di reddito, un anticipo di reddito garantito dagli immobili, come il prestito vitalizio ipotecario, poi alla fine uno va a vedere e non si capisce perché, ma praticamente non lo usa quasi nessuno. Perché? Ma perché c'è un pregiudizio. Cioè, il problema è questo: sulla questione dell'eredità è interessante. L'eredità spesso arriva quando è fuori tempo, sì. Quando le scelte del giovane figlio o del nipote sono state già fatte e spesso, come dire, a ribasso. invece la possibilità di far arrivare l'eredità col timing giusto, quando un giovane deve decidere se fare un corso di formazione piuttosto costoso, se aprire un'attività, è fondamentale. Allora c'è questo nuovo strumento del prestito vitalizio ipotecario che può essere utile proprio per favorire il flusso di risparmi della famiglia dai rami alti a quelli bassi nel tempo giusto. Purtroppo siamo in una fase di rodaggio di questo strumento, non viene spinto secondo me come sarebbe giusto, ma è un elemento che, per carità, non è che... No, la risolutivo, chiave. Però... Certo, però è un problema con il quale fare i conti. Molto spesso è evidente che ci sono delle policy minori che invece potrebbero essere attuate e contrastano un po' con uno spirito conservatore anche delle famiglie, sì, è chiaro, anche delle famiglie. Nel libro non parli molto di una cosa di cui molti mi accusano di parlare troppo, cioè io dico, ha le sue spiegazioni, ma dura da buttare giù, che però tanta energia politica, sindacale, eccetera, finisca per essere esercitata in permanenza sul tema degli anticipi di pensionamento, sui prepensionamento, mandiamo a casa la Fornero, estendiamo sempre di più con sanatorie, anzi con salvaguardie, che non da tempo le salvaguardie, le 8 salvaguardie almeno 3 di esse non riguardavano affatto gli esodati e così via. Dico, ma se un decimo di questa energia si mettesse in campo per tentare di raddrizzare l'ingiustizia intergenerazionale, sarebbe già un passo avanti. Ma può essere che tu non sia d'accordo con me, ma come ti spieghi questa disparità di attenzione? Beh, io non sono d'accordo con te, ma dico che anche i media delle volte confluiscono nel dare al tema delle pensioni una centralità assoluta nella comunicazione e quindi nel dibattito di politica economica italiana. Spesso sembra che la chiave sia tutta lì. È chiaro che in alcune fasi la chiave la si trova lì e la legge Fornero, indubbiamente in una fase delicatissima della nostra storia recente, è stato sicuramente un passaggio importante, ma il riproporre continuamente questo dibattito secondo me è legato un po' alla forza, diciamo, dei sindacati e alla forza che dentro i sindacati hanno i pensionati, e poi, come dire, un po' al fatto che ha una sinistra che è chiamata un po' anzianista, che quindi è portata a rapportarsi alle tematiche dei capelli grigi con maggiore urgenza. Cioè, forse c'è l'idea che il voto del capello grigio è un voto più più ponderato, il voto giovanile è così instabile che non lo si acchiappa. Ma uscendo dal voto, che non è evidentemente il nostro compito, è chiaro che il dibattito invece sulle questioni dei giovani è molto più altalenante. Prendiamo l'ultima questione, che è stata la questione dell'alternanza studio-lavoro, che, come dire, in poche battute è stata un po', come dire, sistemata per le feste, a fronte di comportamenti evidentemente molto sbagliati da parte di qualche operatore, e a un certo punto si è infilato tutto nello stesso sacco ed è sembrato che quindi non fosse utile introdurre un'esperienza che in altri paesi ha dato risultati favolosi. Come dici tu, favoloso. Un po' esagerando a scandire. Però dall'altra parte, siccome tu sei, quando si tratta di criticare le imprese, bisogna anche criticarla, non bisogna far finta di niente. Lo dico a me stesso, a questa radio, tu non sei indipendente di Confindustria. Però, faccio un esempio proprio. Ecco. Scusami, dove le critico? Per esempio sulla questione del terziario italiano. Sì. Io dico che il lavoro autonomo è un lavoro autonomo che è low cost, perché non c'è un'idea del terziario italiano come fonte di valore. Purtroppo nella cultura dell'imprenditore italiano si ha l'idea che il valore si crea a monte, non si crea a valle c'è un puro fatto distributivo. Eppure la storia, come dire, ad esempio dell'IKEA, che ha creato moltissimo valore a valle, dovrebbe dimostrare il contrario, e non solo, anche la storia di gruppi italiani estremamente interessanti come Luxottica dimostrerebbe il contrario. C'è un'idea che il terziario deve essere quasi, come dire, una commodity. Da lì succede il fatto che purtroppo gli stipendi del terziario indipendente e le paghe del terziario indipendente siano minime, e questo è un ritardo di cultura degli imprenditori italiani, che ancora non hanno elaborato un'idea del terziario al passo con i tempi, dove il valore lo si crea probabilmente molto più a contatto con il consumatore che a valle, che a monte, senza ovviamente negare tutte le questioni dell'ottimo prodotto italiano, ma il prodotto deve stare negli scaffali giusti e deve arrivare col servizio giusto. Se tu non hai quest'idea, e purtroppo l'imprenditoria italiana non ce l'ha, partorisci un terziario low cost che non dà soddisfazione e ti indebolisce nel rapporto con gli altri che invece hanno una cultura del servizio che è molto più radicata. Anche io faccio un esempio concreto con cui mi sono imbattuto per il mestiere che faccio, facendo un dibattito due giorni fa. Ho scoperto una società fondata da un ex manager di una grande impresa di progettazione che ha costruito prima una piccola factory e si è via via esteso, ed è una delle pochissime società italiane a depositare di una riconosciuta elevatissima professionalità nel redigere quel particolare tipo di progetto che serve per partecipare alle gare pubbliche, e quella che si chiama la busta B, per intenderci, è quella tecnicamente in cui si deve concentrare il più delle caratteristiche assolutamente che devono rimanere, per come si è modificata la logica del codice degli appalti, e sono favorevole anche a questa modifica, nel tempo dal primo grado di progettazione che si deve presentare fino alla fine a quello che poi sarà realizzato, senza mille varianti che erano quelle con cui si vinceva al massimo ribasso e poi si portava a casa una cifra ancora superiore a quella del massimo ribasso di X volte e quella della prima indicazione di gara. Allora, ho scoperto che anche in questo caso, essendo ovviamente una piccola società ma esternalizzata rispetto ai grandi contractor, anche in questo caso non l'avrei mai pensato, perché stiamo parlando di gente di una professionalità assoluta, i tempi e le remunerazioni mi hanno lasciato senza parole, nel senso che è esattamente come stava adesso descrivendo Dario Di Vico, e sto parlando, devo dire, di una iperprofessionalità testata e verificata, eppure è esattamente così. Quindi bisogna sapere anche parlare male delle imprese. Io personalmente sono senza parole di fronte al fatto, garanzia giovani per intenderci, del fatto che il 70% delle prese in carica si riduca in stage, che sono lavoro a formazione zero, lavoro finto, non dichiarato. Ecco, quel dato, cari imprenditori in ascolto, mi fa veramente rabbrividire. Allora, ci ha raggiunto Marco Bentivoglio, il segretario generale della FinCISL. Grazie di essere con noi, Marco. Grazie a voi, buonasera. Allora, abbiamo detto quattro grandi linee di frattura delle diseguaglianze nel nostro paese. Una è quella che riguarda sicuramente la geografia, ma non più il vecchio nord-sud. Una quella che riguarda le generazioni. Una all'interno del mondo del lavoro, che riguarda sia i tre tipi di operai, chiamiamoli così, che il lavoro autonomo, diminuzione, ma con magari altissime professionalità iper precarizzate, e poi quella delle diseguaglianze più in generale oltre a queste tre. Possiamo un secondo prenderne una in particolare, quella del settore in cui tu fai rappresentanza alla testa della FinCISL, questi tre tipi di operai, di cui il primo, quello avanzatissimo, di cui riempiamo i convegni, ma punto interrogativo, lo abbiamo costruito davvero con l'industria 4.0? Ma il secondo, quello che i più invece ricordano con nostalgia, è una cosa che a me fa impazzire che si sia nostalgici del fordismo, però è alla fine quello che a me sembra prevalere. Il terzo, quello, diciamo così, dell'esercito dei precari, anche dei servizi, operai, sia pur non essendo addetti alla manifattura, spesso sono il precariato dei servizi, dipendente a basso costo e in condizioni indegne. Marco, non stiamo esagerando a pensare che la rivoluzione della qualità, della compartecipazione, della sensoristica con l'elevazione delle modalità di prestazione di lavoro, a patto che le imprese e il sistema formativo facciano formazione di livello per queste nuove nove mansioni, ci fanno dimenticare poi il vasto rimpianto di larga parte anche del mondo sindacale e politico per il lavoratore fordista e le sue pretese certezze anche di welfare, e ci facciano restare ciechi poi di fronte al terzo tipo di operaio? Ma innanzitutto io credo che il libro di Divico sia un contributo utilissimo, perché la geografia non solo del lavoro ma dei lavoratori in questo periodo è stata sin troppo ripresa in modo macchiettistico, generalista o con lenti assolutamente novecentesche, per cui innanzitutto il libro è fondamentale per capire come si stanno spostando, dentro quali tribù anche i nuovi lavoratori e anche quelli che non sono esattamente nuovi lavoratori. Io direi che rispetto a questi tre gruppi di cui si parla c'è sicuramente una valutazione che è un'incognita, e cioè se la tecnologia, ma non esattamente la tecnologia, le policy, anche la contrattazione, anche tutte le politiche che si fanno attorno all'inserimento di quote massicce di nuove organizzazioni del lavoro e tecnologia, se danno valore anche in termini di remunerazione al lavoro o no. Questa è un'incognita molto importante, perché troppo spesso la si riduce, si pensa alla tecnologia nel lavoro equivalendo ai gig worker, e per cui alla fine si finisce a parlare di chi porta la pizza. In realtà la questione è molto più complessa. Secondo, questa partita è viziata dal fatto che in Italia il sistema economico è ancora ha un dualismo, in realtà è spaccato esattamente in tre il mondo delle imprese, e cioè c'è un mondo delle imprese che esporta, innova tecnologie e anche aumenta la quota di remunerazione del lavoro, lo professionalizza, non aspetta neanche i piani del governo per correre e fare quello che si deve fare. Però poi c'è al lato opposto un pezzo di imprese che sono collegate al mercato interno e che stanno state falcidiate dalla crisi e oggi fanno fatica a ripartire realmente in maniera strutturale al netto degli incentivi, e poi c'è in mezzo un limbo che è un po' come il primo gruppo, un po' come il secondo. Allora, dentro queste situazioni è chiaro che i lavoratori che sono dentro queste situazioni vivono anche questo tipo di contesto, e la grossa difficoltà è che anche chi ha nostalgia dell'operaio massa, in realtà l'operaio massa vero e proprio non esiste più, nel senso che anche nelle aziende con piccole parcellizzate quote di fordismo il lavoratore non è più il lavoratore con una produzione in serie, e aggiungo per fortuna, ecco, no? Ecco, sì, io sono anch'io d'accordo, penso che la tecnologia sia un alleato nell'umanizzazione del lavoro. Il problema è in questa partita, adesso noi stiamo scaricando tutto sulla formazione e la competenza, che sono sicuramente un elemento fondamentale, e il problema, io aggiungo un ulteriore elemento, è che anche puntando tutto sulla competenza e la formazione, come noi anche nel contratto abbiamo cercato di fare nei metalmeccanici, ma c'è oggi una fase straordinariamente importante, ma altrettanto straordinariamente trascurata, che si chiama progettazione, e cioè noi non stiamo dedicando il tempo a costruire attorno alle imprese degli ecosistemi nuovi, perché anche le aziende più evolute attorno a un ecosistema non smart sono non fabbriche nel deserto, sono fabbriche che non sono in grado di funzionare. E allora la questione fondamentale oggi a cui dovrebbe, mi sembra che le prime battute di campagna elettorale dicano tutt'altro, è occuparsi della progettazione delle nuove architetture tecnologiche, sociali, industriali, soprattutto per quello che riguarda i lavoratori, perché oggi noi abbiamo dei criteri convenzionali, cioè da questo punto di vista il libro di Divico, rispetto noi siamo abituati a dire il lavoratore o è dipendente o è autonomo. Ecco, quello che dice Divico ci porta per mano a vedere che c'è qualcosa di più, esatto, di più specifico, e che ci impone anche qualche riflessione aggiuntiva e qualche cambiamento supplementare. Ecco, queste secondo me sono le prime cose importanti. Allora, io ringrazio Marco Bentivogli che ha strappato la sua giornata questi 10 minuti per dire la sua, quindi intanto grazie. Noi restiamo con Dario Di Vico perché adesso andiamo alle notizie sulla borsa, un po' di pubblicità e poi torniamo con l'autore di questo libro. Vi ripeto il titolo: Nel paese dei diseguali, noi, i cinesi e la giustizia sociale, Dario Di Vico e Egea Editore. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto e non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta in studio, Oscar Giannino, ed è ospite con noi, lo ringrazio, Dario Di Vico, inviato editorialista del Corriere della Sera. Il suo ultimo libro è appena uscito, lo trovate in libreria, Nel paese dei diseguali, noi cinesi e la giustizia sociale. Allora riprendiamo il filo da dove il segretario della FinCISL Marco Bentivogli ce l'aveva lasciato, cioè dicendo ci sono queste tre tipologie di imprese italiane. C'è, diciamo, il quarto capitalismo, ma non solo, insomma lì sono poco più di 5.000 multinazionali tascabili. Se pensiamo all'indice di produttività Ceccarelli, sono comunque 5.800, poi sono 216.000, scusate, quello che l'Istat ci analizza nel suo rapporto annuale, che esportano, ma in percentuali diverse. Però al di là della parte alta, che è nelle catene globali del valore, impegnata a tenersi su nell'aumento di valore, nella produttività comparata, sia quindi nel miglior utilizzo possibile del capitale finanziario, che è un problema che resterà complicato per anni nel nostro paese, capitale umano, capitale fisico, intangible, poi però c'è una parte intermedia così e poi una parte che non ce la fa. Posso dire una cosa? A me ha colpito molto, Dario, che nel tuo libro, a proposito delle diseguaglianze, ne dedichi anche un capitolo a una cosa di cui di solito non si occupa nessuno. Cioè, anche la parte alta, diciamo così, dell'Italia che ce l'ha fatta, in Italia è troppo debole. Cioè, noi è giustissimo che ci occupiamo di chi ha perso reddito, dei giovani che non hanno né reddito né patrimonio, con il welfare che non è costruito per loro, ma per le pensioni e così via. Però, alla fine, per spiegare quello che ci diceva Bentivogli, e cioè una percentuale così elevata di imprese che insomma stentano a fare il nuovo passo organizzativo, gestionale, a capire che cosa reinternalizzare e che cosa reesternalizzare, e a pagare la competenza e a pagare di più i dipendenti, forse questa cosa che tocchi nel capitolo intitolato L'ascensore sociale non sale più, però mancano i piani alti, non è così indifferente. Come mai quasi nessuno ci pensa a questo? Perché quando si parla di mobilità sociale si ragiona sulle cause in basso, ma non si vanno a vedere le cause in alto. Secondo me lì concorrono molte questioni. Uno, l'eccessiva semplificazione degli organigrammi di alcune aziende italiane. Per esempio, mi colpisce, Oscar, che in questo periodo in cui si parla tanto di capitale umano, poi fior di aziende impegnate nel 4.0 o nei beni strumentali non hanno nemmeno la funzione risorse umane. Per carità, non sto sostenendo burocraticamente la funzione risorse umane, però dico che però, come dire, è evidente che la storia della nostra impresa basata sulla resilienza del produttore, delle volte non ha prodotto nemmeno l'articolazione di competenze a livello della singola impresa che permette poi la mobilità sociale, permette poi di portare dentro delle figure nuove. Questo è un primo dato. Il secondo dato è un fatto che le multinazionali scelgono un modello più piatto. È interessante nel libro tutto quello che dice Vittorio Colao, che è un italiano alla testa di una multinazionale di grande qualità come Vodafone, che a un certo punto dice: sì, è vero, noi tagliamo la parte alta perché vogliamo un sistema organizzativo piatto, e a quelli che con noi non possono stare diciamo di fare gli imprenditori fuori. Facendo gli imprenditori fuori hanno più chance che stando dentro una catena lunga del nostro gruppo. Quindi è chiaro che ci sono dei mutamenti nelle modalità di funzionamento delle grandi imprese che rischiano di avere anche un effetto negativo, cioè che l'ascensore non sale perché i piani alti non ci sono, o comunque in quell'ascensore per i piani alti c'è posto per pochissime figure. Ovviamente questa è una tendenza che si riscontra, ripeto, sia nella multinazionale sia per altri tipi di problemi nella media impresa italiana, ma è una tendenza che in qualche maniera ci preoccupa, perché significa meno sbocchi qualificati per i nostri laureati, il nostro capitale umano. Insomma. Ecco, è una riflessione che secondo me è un po' in divenire, io l'ho proposta, sarà interessante vedere altre voci, sentire altre voci oltre quella di Vittorio Colao, perché capiremo meglio. Ecco. Io sono per esempio convinto che questo fenomeno, che veramente è particolare dell'Italia, cioè i middle e non solo i middle ma anche gli high level manager in Germania e in Francia sono una parte fondamentale del dibattito pubblico in quei due paesi, e in larga misura, se in Germania c'è Fraunhofer, non è solo perché in Germania nel secondo dopoguerra anche quelle un pezzo di architettura istituzionale, sociale ed economica e produttiva nata dall'esperienza tedesca, ma poi anche con una certa supervisione abbastanza occhiuta degli alleati, ma perché nella cultura d'impresa di quei paesi questi sviluppi hanno tradizioni di spine dorsale tecnica manageriale che si confrontano da decenni, non a seconda di cosa votino, ma in un dibattito pubblico su cosa sia meglio, cosa sia peggio fare, le imprese quanto devono essere nella formazione, chi finanzia la formazione a quel punto. In quel caso il 70% è finanziato dall'impresa, dal Fraunhofer, che però è diffusa in tutti i distretti industriali e secondo il mix territoriale delle specializzazioni tedesche. Io mi sono sempre chiesto com'è che l'Italia non abbia niente di equivalente, ma mi sono risposto, e non so se Dario è d'accordo, che troppo spesso l'interlocutore della politica in Italia per decenni era il grande imprenditore, quello che c'ha il monopolio della rappresentanza, ma non i manager, chi conosce la realtà dell'evoluzione con lo strumento in Germania, ma ripeto, in Francia è la stessa cosa, con gli enarchi che passano prima per la gestione delle imposte al ministero, poi diventano poi dirigenti di grandi imprese e sono loro poi a diventare i protagonisti. Insomma, alla fine anche Macron, il rivoluzionario, viene da una carriera, da una formazione di quel tipo là. Secondo te non è un po' vero che ci manca questo tipo di figura nell'interlocuzione pubblica italiana? Sì, sai, perché in Italia il manager, molto spesso fa il manager delle partecipazioni statali, no? Con un forte protagonismo mediatico, con una capacità di influenzare la politica, e quindi un po' è rimasta questa idea che il manager, va al di là del suo ruolo. Nel privato, secondo me, è un po' legato al fatto che la figura dell'imprenditore spesso nelle medie aziende fatica a coesistere con figure di articolazione di competenze. Il fatto è che la riforma tedesca del welfare del mercato del lavoro l'ha fatto un manager, che era appunto l'ex capo delle risorse umane della Volkswagen, cioè per dire, non l'ha fatto un imprenditore. Qui abbiamo l'idea che l'imprenditore fa politica. Quindi sì, e questo era un passaggio, ma io penso che anche le nostre medie imprese di successo, le multinazionali tascabili, non siano da infilare in un museo. Io penso che lì si sta innestando una dinamica molto interessante, complicata. Per esempio c'è tutta la questione, ma le multinazionali tascabili italiane devono poter raddoppiare la loro taglia in un colpo solo, come la vicenda Luxottica Essilor o Atlantia Bertis. Beh, vedi che in passaggi come quelli è evidente che non solo c'è un'articolazione manageriale, ma c'è la necessità di combinare la propria cultura con delle altre culture aziendali molto radicate e molto forti. Quindi non basta più la crescita interna, cioè io apro un ristorante dopo l'altro e un po' alla volta lo posso fare io padrone senza articolazione manageriale. Questo è un altro passaggio delle questioni che riguardano la nostra cultura industriale, perché Oscar, a prescindere che siamo alla radio della Confindustria, ma io direi ovunque, noi abbiamo una straordinaria capacità imprenditoriale. È chiaro che non è mai per sempre. Oggi questa straordinaria capacità imprenditoriale deve coniugarsi con una rinnovata cultura industriale in cui ci sono delle discontinuità, per esempio sul capitale umano, sul manager e così via. Come sottolinearlo o suggerirlo agli imprenditori penso che non sia un peccato di lesa maestà, ma sia anzi, come dire, no, è quello che fai da modo di fare il nostro lavoro, quello che fai da anni sul Corriere della Sera. E adesso però, dopo che ci fermiamo un minuto sul traffico, andiamo nella parte finale, è quello che è il capitolo finale del libro, dove emerge anche la natura civile della convinzione dell'autore. E allora lì andiamo a vedere, faremo una domanda, l'unica un po' politica, ma perché la fine è un po' anche, si pone il problema della politica. Come mai la politica italiana stenta a interpretare queste, diciamo, semplificate, quattro linee di faglia, di frattura, delle diseguaglianze che da anni oramai si stanno manifestando nel nostro paese. Tra un minuto, intanto strada. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati qua in studio, inciso per molti ascoltatori che me lo chiedono, ma sono una battuta perché non voglio rubare tempo, stiamo parlando di altro, visto che mi chiedete un'opinione secca su cosa penso della fuga a Bruxelles di Puigdemont e i suoi ministri catalani accusati di sedizione e ribellione, oramai formalmente dalla procura centrale spagnola. Ecco, io penso che non sia una buona mossa, e se mi avete seguito nel tempo sapete che credo che abbiano commesso dei gravi errori a non capire che dovevano dire prima che cosa si rischia uscendo dall'Unione Europea e dall'euroarea, pur essendo io solidale con le ragioni profonde dell'autonomia catalana, e questo li ha portati esattamente a fare quello che Rajoy da tanto tempo voleva. Rajoy voleva arrivare esattamente a questo, e adesso con questa fuga io penso che sia un errore, perché la collezione in cui si erano messi comportava che per fare battaglia politica, continuarla, bisognava anche accettare di essere messi alla sbarra pacificamente, continuando a quel punto a sostenere la ragione di un'autonomia della Catalogna. Se invece vai via, lasci, non solo lasci la battaglia politica pacifica sono 7 volte, ma come ovvio inizia a farti deridere, e quindi coloro che ti hanno seguito, una buona parte sia pur non maggioritaria della Catalogna, dice vabbè, ma di che cosa stiamo parlando, fate gli esuli all'estero come nell'Ottocento. Ecco, io la penso così. Ma torniamo con Dario Di Vico alla parte finale del suo libro, dove c'è un'analisi politica. L'analisi politica è: non sarà il PIL da solo a salvarci dal populismo. E sì, in alcune pagine molto vissute, civili, perché insomma anche Dario ha le sue convenzioni civili e politiche, anche se non si vedono dal libro, come sempre non si vedono neanche negli articoli che scrive, ma insomma dice qui la ripresa italiana, per quanto si stia consolidando, non ce la fa da sola, perché non c'è un'analisi adeguata di motivi profondi e radicati di malessere, di generazionale, di reddito, di patrimonio, di nuove figure lavorative e così via. E mi pare che il fulcro della tua analisi, Dario, sia sul fatto della sinistra. Tu dici la sinistra è arrivata alla terza via tardi e male, e quando il mercato è crollato tornano indietro come affari nostalgici del pre-terza via, ma questo significa che non sono più capaci di una lettura. E così, ho sbagliato a vedere questa la tua analisi, Dario? No, certo. Io con una battuta dico che noi non dobbiamo far diventare i diseguali degli occidentali riluttanti. cioè dobbiamo stare attenti che con le sperequazioni non si trasformino in una visione ostile alla democrazia, detta in maniera... Anche se, detta veloce. La verità, il rischio, vedendo le mail che arrivano rispetto a quelle di 4 anni fa, adesso non voglio dire che è a rischio la democrazia, ma la pancia libera contro lo straniero di qualunque tipo, non gli immigrati, ma oramai il tedesco, il francese, lo spagnolo, contro lo straniero. E poi, considerazioni improntate alla razza, alla lingua e alla religione, io così non l'avevo mai vista come negli ultimi 3 anni quelle che ci arrivano. No, ma infatti proprio perché c'è questo pericolo, secondo me c'è in questo momento nei confronti dei valori che chiamiamo occidentali, per semplificare, il rischio che di una contestazione a partire da una disparità di distribuzione di chance prima ancora che di reddito. Allora, per evitare questo tipo di riluttanza nei confronti della democrazia, bisogna un po' ragionare su il nesso che intercorre tra disuguaglianza e politica. Dico che storicamente chi ha utilizzato la disuguaglianza come materia prima della sua elaborazione è stata la sinistra. Non c'è dubbio. E quindi se ci pensiamo, insomma, tutto lo straordinario Novecento, tutta la storia, come dire, della sinistra del Novecento è stata la capacità di lavorare, di lavorare sulla disuguaglianza della classe operaia e su questo costruire un capitale politico eccezionale. Ci sono delle domande da fare. Qual era la quota di strumentalità in quella lavorazione? Abbiamo scoperto col tempo che era elevata, cioè che era elevata, che in realtà, come dire, in nome dei diseguali si operavano delle forzature politiche che in un caso poi hanno portato ai regimi e da noi hanno portato alla formazione di ceti politici autoreferenziali, poco legati alla società. Oggi quindi la sinistra, che ha sempre lavorato la disuguaglianza come materia prima, fatica a farlo e non ha, sembra non avere gli strumenti. L'ultimo strumento è stato un po' il bellismo, la terza via, che però è stato messo in crisi non tanto da altre forze politiche, da altre proposte concorrenti, ma dagli effetti della globalizzazione, che in qualche maniera hanno messo in difficoltà quelle politiche che erano politiche tutte di ossimoro, no? Che erano di ossimoro e quindi cercavano che fare che cosa? Di conciliare il mercato con l'equità. Quelle politiche a un certo momento, di fronte ai numeri messi in campo dalla globalizzazione, non hanno retto più. E oggi la sinistra è orfana della terza via, fatica a dirlo. Io per esempio oggi ho letto che c'è stata una conferenza programmatica del PD ieri, no. Non ho letto una proposta che è venuta fuori. Certo, sarà colpa, no, colpa nostra. Anche colpa dei giornali. Sì, colpa dei giornali, non c'è dubbio. Però non c'era. Però è sintomatico, no? Cioè c'è stata una conferenza programmatica. E io non ti voglio far dire di più, perché abitualmente chi dice queste cosacce sono io, ma sposo la tua convinzione. Io temo addirittura che sia un ritorno indietro, anzi quello che temo è una campagna elettorale in cui tutti fanno i populisti con questa legge elettorale, a dire la verità. Comunque 21 bonus nella legge di bilancio, da domani inizieremo a sfogliarla tutti insieme, vedrete che nel Parlamento aumentano e sa Dio dove arriva il deficit, e quindi la gara chi è più populista, perdonatemi, vediamo chi sarà il vincitore, ma temo che tutti abbiamo da rimetterci più che da guadagnarci. Comunque grazie a Dario Di Vico, leggete il suo libro Nel Paese dei Diseguali, è già editore. Appuntamento con me e Luca Tre.